Amici sportivi, quasi tutto pronto, vedete, per l'ingresso in campo, erba un po' alta, stile Real Madrid di Mourinho. Tutti convocati weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo. Finisce la breve era di Walter Mazzarri all'Inter, si riparte con il ritorno in panchina di Roberto Mancini. Hanno cacciato Mazzarri dall'Inter. Hanno fatto bene, perché secondo me non è competente per la piazza di Milano. Credo in questo progetto, perché se no non avrei accettato. E chiaramente non ho la bacchetta magica e credo che questo si debba basare, soprattutto si debba tornare a vincere attraverso il lavoro. Ma io le sensazioni giuste le ho avute anche contro l'Azerbaigian e contro Malta. Ribadisco il concetto che spesso e volentieri le partite, per essere belle, bisogna giocarle in due. Lo spirito era ed è stato buono in queste quattro partite. E mi auguro che lo spirito, ma anzi sono sicuro che lo spirito sarà buono anche domani. Ce l'auguriamo tutti, 800 24 00 24, telefoni aperti, viviamo insieme la vigilia che ci porta Italia-Croazia, quindi vogliamo sapere qual è la vostra sensazione. Quella di Antonio Conte l'avete sentita, lui aveva però buone sensazioni anche prima di Malta e Azerbaigian. La tua, Carlo? Ma la mia è che sarà una partita molto interessante per l'Italia, però stiamo vivendo la vigilia di Italia-Croazia, ma stiamo soprattutto a questo punto vivendo la vigilia del derby a Milano, perché inutile nasconderlo, la notizia della settimana è stata quella dell'esonero di Mazzarri, del ritorno di Mancini, e quindi è questa la questione che monopolizza l'attenzione Italia-Croazia, un bel contorno. Sì, per due domeniche San Siro, centro del mondo, sì. Di quel piccolo mondo che è il calcio italiano. 800 24 00 24, vogliamo anche sapere, interisti e non interisti, che effetto vi ha fatto rivedere ieri il Mancio ad Appiano Gentile. Intanto noi siamo assediati dai tifosi croati, Noi siamo a due passi da San Siro. Sì, ne ho visti tanti. Ne stanno passando a migliaia, dicono 6.000, altri 2-3.000 li hanno bloccati alla frontiera perché non avevano il biglietto. Sì. Oggi domenica top, avremo tanti grandi ospiti, abbiamo un nazionale croato con 100 presenze, sì. Darione Simic. È uno che conosciamo bene, ma comunque è bello pensare a comunque San Siro pieno per la nazionale di domenica sera, che non è esattamente prime time per i bambini, per le famiglie, tutto quanto. Però insomma, quanto tempo è che non c'era San Siro con 63.000 leggo spettatori? Sì, nemmeno a mettere insieme quelle di Inter e Milan, nemmeno a mettere insieme delle ultime apparizioni. Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Fabio Cantadori, siamo anche alle prese col caso Balotelli, non so se hai letto caso Balotelli. Sì, vero o reale l'infortunio? Ma chi può dirlo, cioè, conviene fidarsi delle dichiarazioni ufficiali, perché se stiamo lì ad essere maliziosi o maligni, non ce la caviamo più. Chi sta parlando? Perché secondo te no. Chi sta parlando? Sta parlando Carlo Getta. No, secondo me sicuramente lui ha la pubalgia. Il voto diplomatico? Oggi però qualcuno ha scritto, Il Tempo di Roma, ha scritto, sì, Balotelli aveva un problemino, però la verità è che quando ha capito che contro la Croazia non avrebbe visto il campo nemmeno per un minuto e avrebbe dovuto aspettare l'amichevole di martedì con l'Albania, diciamo che ha concordato con lo staff di Conte. Io non ci credo. Il rapido ritorno a casa. Non ci credo. Aspetta, ti faccio sentire però Conte questa mattina ai microfoni di Rai Sport. Quello che ho visto lo tengo per me, ecco, quindi mi sono fatto un'idea. Adesso Balotelli non c'è più, quindi è inutile parlare di Balotelli. Non è scattata la scintilla? No, sembra di no. Non si sente grande entusiasmo da parte di Conte, però insomma, anche dopo tre giorni, neanche una partita, eccetera, eccetera, mi sembra difficile. Primo, che Balotelli abbia fatto i capricci, perché era qui grosso modo per grazia ricevuta. Secondo, che Conte possa avere davvero un'idea completa di come possa essere il giocatore dopo tre giorni. Sì, non è andata benissimo però questa prima settimana, le polemiche sul fotomontaggio, sì, che certo. Poi lì Mario non c'entrava nulla perché era questione del fratello, poi questo infortunio vero, presunto, addirittura Repubblica scrive la finta convocazione è finita, Conte si è tolto il problema. Secondo te lo richiama o chiudiamo qui? Non ho idea, però sarà interessante vedere. Se lo richiama, allora vuol dire che ci siamo sbagliati, che l'infortunio è reale, che non stava bene, che è andato a casa, tutto a posto. Se non lo richiama più, vuol dire che davvero è successo qualcosa. Ma ripeto, mi sembra abbastanza difficile che in questi tre giorni sia successo qualcosa di grave, tale per cui Balotelli sia andato via. Non credo potesse aspettarsi nemmeno di giocare a titolare contro la Croazia appena arrivato, e su questo Conte era stato estremamente chiaro. Lui partiva come ultima punta e tale era, doveva giocare contro l'Albania. Non lo vedremo, è tornato in Inghilterra e l'ha mezzo scaricato anche Mancini, che ieri ha detto Balotelli sta benissimo al Liverpool e deve sfruttare lì la sua chance. Questo lo vediamo. Tu dici che c'è qualche opportunità di rivederlo a gennaio a Milano? Ma sai, il tempo dei grandi ritorni, non escluderei questa ipotesi. Non credo che gli interisti piacerebbe, ma magari ce lo possono dire. 800 24 00 24, traffico. Non avrei mai pensato di tornare all'Inter e quindi è successo tutto molto in fretta, e nel calcio queste cose accadono, e mi fa molto piacere, vuol dire che è stato fatto qualcosa di buono, e quindi questa è la cosa più importante. Tutti convocati. Tutti convocati. Mario, io credo che stia bene a Liverpool, ha una grande chance. Lui deve cercare di fare il massimo lì, perché ha la fortuna, ha avuto la fortuna di nuovo di tornare in Inghilterra in uno dei club più importanti, e quindi deve sfruttare questa occasione. Sì, non mi sembra caldissimo nemmeno Mancini sul tema Balotelli, ma sai a chi lo chiediamo? All'amico Paolo Condò. Ciao che Paolo. È quello forse che conosce meglio di tutti Mancini. Ciao Paolo. Buona domenica a tutti. Ciao Paolino. Non caldissimo. Ciao. Torna Balotelli all'Inter? Non credo. No? Non credo, no. Non escluderei niente. Al Manchester City l'ultima volta, quando Mancini decise di venderlo, mi disse le parole meno diplomatiche rispetto a quelle che abbiamo sentito ieri, e non credo che sia tornato sui suoi passi. Sì, mi sembra che il messaggio tra le righe fosse abbastanza comprensibile, anche quello di ieri. Paolo Condò, che è stato convocato perché ieri sulla Gazzetta dello Sport ha pubblicato, secondo me, l'analisi più lucida di quella che sarà l'Inter di Mancini, spiegando tra l'altro di averne parlato col diretto interessato in tempi non sospetti ma abbastanza recenti. Mi ha colpito questa convinzione che poi ieri Mancini ha espresso, ma molto tra le righe, e cioè la convinzione che questa è una squadra da terzo posto, mentre noi da settimane discutiamo dell'inadeguatezza a stare ad alti livelli della squadra che era in mano a Mazzarri. Cioè lui è convinto che vale il terzo posto. Lui era convinto all'inizio del campionato che valesse il terzo posto, in lotta col Napoli, e quindi ora non si nasconde il fatto che 5 punti di vantaggio più lo scontro diretto a San Siro già giocato siano due cose che rendono il Napoli favorito nella rincorsa, anche perché il Napoli ha passato la sua crisi pesantissima e mi pare che sostanzialmente ne sia uscito, anzi ora sta correndo, e quindi arrivare terzi sarà complicato, riuscire a raggiungere il Napoli, anzi ogni tanto si parla addirittura del Napoli che potrebbe insidiare le prime due, e quindi per l'Inter è difficile, però l'organico è un organico che a Roberto piace. Piaceva fin dall'inizio, lo trovava ricco di giocatori di qualità, e evidentemente a Mazzarri non è riuscita una mescola, un mix che Mancini potrebbe portare a termine. Come l'hai visto ieri? No, l'ho visto bene, ma lui come gli altri allenatori un po' ingrassato rispetto alle immagini della stessa situazione di 10 anni fa. Non sarò mai io a accusare una persona di essere ingrassata. 10 anni sono 10 anni, Giovanni, abbi pazienza, anche per Mancini, che bello quel ciuffo, piacerà ai tifosi interisti che non sopportavano nemmeno fisicamente Mazzarri, però concedigli 10 anni, insomma, ormai classe 65, no Mancini? 64 insomma. Sì, non è più un ragazzino. 50, no, decisamente non è più un ragazzino. Ai suoi 50 anche lui, dai. Comunque l'hai visto bene? No, l'ho visto bene, l'ho visto felice di essere comunque rientrato. Perché gli allenatori, compresi quelli grandi, a un certo punto loro ti dicono facciamo l'anno sabbatico, ti guardiamo in giro, non voglio entrare in corsa, aspetto la proposta giusta, però in realtà smaniano da fuori. Figuratevi che José Mourinho, quando venne esonerato dal Chelsea, lui poi a primavera firmò con l'Inter e poi è successo quello che successe. Ma prima che si concretizzasse la possibilità dell'Inter, lui aveva parlato anche col Valencia, per darvi un'idea di come, che voglio dire, era un club di livello superiore rispetto a quando è adesso, c'erano David Silva e David Villa, per intenderci, in quel Valencia. Però comunque non era un top disponibile club. Andare al Valencia, no, non era un top, sì, club. Altro che corsi di aggiornamento, giro a vedere gli altri, esatto. Imparo l'inglese, lo spagnolo, il greco, esatto. Che adesso sta studiando Mancini, Trapattoni, il greco Mancini, nel frattempo. Mamma mia. Mancini ha già imparato l'inglese, e la stessa scelta di andare l'anno scorso al Galatasaray era proprio la scelta di uno che aveva una voglia di lavorare enorme e non voleva restare fuori. Quindi l'Inter, figurati, lui per tutta la... noi, come hai detto tu, ci capita abbastanza spesso di parlare, lui aveva in testa per il futuro il Paris Saint-Germain. Però nel momento in cui io gli dicevo ma se ti chiamasse l'Inter, lui prima diceva di no. Gli si illuminavano gli occhi. No, più che altro lui diceva di no, però poi rivelava, parlandone, una conoscenza della rosa dell'Inter, la conoscenza di uno che l'ha studiata, non la conoscenza di uno che guarda le partite e basta. Ecco. Senti Paolo, quindi, ma secondo te che cosa chiederà come regalo di Natale? Ma io penso che lui chiederà la mela. La mela non staccato, non l'articolo mela frutto. Io credo che sia quello lì il giocatore, l'attaccante esterno, perché altrimenti lui partirà sicuramente col 4-3-1-2, ma vorrebbe arrivare al 4-2-3-1, che è il modulo col quale ha vinto il campionato al Manchester City. Dove tra l'altro mi pare di aver capito troverà posto anche Hernanes, che nell'Inter sta vagando tra un ruolo e l'altro, con Mazzarri non l'ha trovato, potrebbe trovare finalmente la sua collocazione. Ma Hernanes dovrebbe essere il centrocampista di regia arretrato accanto al mediano mordicaviglie, che potrebbe essere ovviamente Medel, o quando rientrerà un Vila, che mi pare sia un po' un UFO in questa Inter, è infortunato ancora, non Vila, comunque è un giocatore simile a Medel, invece ci vuole il raziocinante, quello che c'ha il fosforo, il pirlo della situazione. Hernanes in Brasile giocava in quella posizione e mi sembra il giocatore più adatto anche per permettere a Kovacic di dedicarsi all'assistenza alle punte. Sì, qualcuno che non faccia toccare il pallone 100 volte a Medel, che è quello che è successo nelle ultime settimane all'Inter. Vi leggo alcuni messaggi che sono arrivati al 349-238-6666. Tranquilli, dopo un mese di Inter il Mancio tornerà in forma perfetta. Magari avrà anche i capelli bianchi, come è capitato a qualche suo predecessore. C'è chi dice di minestra riscaldata basta quella di Mancini, quella di Balotelli oltremodo in digesta. Ho l'impressione che quella del Mancio non sia una minestra riscaldata. Noi scherzando abbiamo visto, guarda, c'è solo Andreolli in comune con la vecchia. Ci siamo parlati e gli ho fatto questa domanda della minestra riscaldata e lui ha detto di dirigenti non c'è più, c'è solo Ausilio, che all'epoca era responsabile del settore giovanile e vedevo una volta alla settimana, quindi adesso lo vedrò ogni giorno, però all'epoca non faceva parte del mio staff più ristretto. I giocatori, lui non si ricordava che c'era Andreoli, diceva non c'è nessuno più, e quindi che minestra di scalata è? Sono uguali i tifosi, lo stadio, ma le persone con cui avrò a che fare sono completamente diverse rispetto a... Sì, ha fatto una certa impressione vederlo ieri con a fianco Bolingbroek e mettere a paragone la fotografia di 10 anni fa, dove a presentarlo c'era Facchetti. Certo. Dà proprio il segno di che cosa è successo all'Inter in quest'ultimo periodo. Tante cose, tanta roba. Stiamo parlando dal 2008, quando lui è andato via, quindi sono passati 6 anni, ma sono 6 anni nei quali veramente è successo di tutto, a tutti i livelli, anche, anche di triste come la scomparsa di Giacinto Facchetti, ovviamente. Paolo, hai un minuto che sentiamo insieme Dario dalla provincia di Varese. Dario. Sì, buonasera. Eccoci. Ma allora, sono contentissimo per Mancini, direi che in questo momento di disaffezione dell'Inter o di contestazione potevano tornare o Mourinho o Mancini, primo era impensabile, però proprio per questo la mia analisi, e volevo chiedere anche il vostro parere, secondo me è stata una mossa anche politica di Toir, perché la contestazione rischiava di intaccare anche la sua figura. Chiamando questa persona è sicuramente tornato nelle simpatie dei tifosi e ha dimostrato che probabilmente spenderà anche qualcosa. Sì, su questa seconda parte vedremo, vedremo anche che cosa potrà spendere, cosa gli lascerà spendere l'UEFA. Spenderà molto che arriveranno le sanzioni. Tanto spenderà molto la voce allenatore. Sì, l'abbiamo detto venerdì, è stata forse una scelta anche di pancia, cioè doveva fare qualcosa da interista e lo ha fatto, così come a gennaio da interista era arrivato. Seconda volta, aveva bloccato Guarin. Appunto, seconda volta. E poi seconda aveva volta che c'è dalla piazza. Seconda volta che c'è dalla da 20 piazza. Milioni. Paolo, per chiudere, come vedi Italia-Croazia stasera? Sera. La vedo complicata, perché la Croazia è una bella squadra. Secondo me un buon pareggio, cioè un pareggio sarebbe già un risultato di cui essere contenti. Detto che ovviamente queste sono le due squadre che si qualificheranno dal nostro girone agli europei, che si qualificheranno direttamente con una corsa fra Norvegia e Bulgaria per chi sarà la spareggiante, quella che andrà a spareggiare. Però questa è una partita che per il prestigio conta molto e mi seccherebbe perderla. Però la Croazia è una squadra forte, non lo so, forse mal guidata, perché ai mondiali poteva fare molto di più di quello che ha fatto. Però io mi ricordo il primo tempo col Brasile, erano passati in vantaggio e se Neymar non si inventa un gol fantastico da fuori area, quel tiro ve lo ricorderete, vai subito, sì, prima dell'intervallo. La partita rischia di essere incartata. La partita si incarta per bene. La guardiamo con un pizzico di invidia la Croazia. Ha molto di quello che noi non abbiamo in questo momento: gioventù, talento, qualità, prospettive. Kovacic oggi va in panchina, da quello che mi pare di aver letto. Modric e Rakitic sono una splendida coppia al centrocampo. E noi siamo appesi alla classe di Pirlo che non c'è, e abbiamo Verratti che non c'è ma che comunque non trova un ruolo, è una sua dimensione nella nazionale. Devo dire, prima di salutarci, non è la prima volta che lo dico, a me che capita di vedere spesso, l'ho visto anche in Paris Saint Germain, Marsiglia domenica scorsa, non riesco a rassegnarmi al fatto che in questo periodo storico così povero e così triste di talento per il calcio italiano Verratti non sia già il perno attorno al quale i vari CT costruiscono l'Italia. Già, proprio così. Sì, sì, non sia nemmeno uno degli 11 in questo momento. No, è abbastanza allucinante. Cosa serve di più? È un paradosso. Cioè, che cosa devi fare per giocare nella nazionale italiana in questo momento a quell'età? Cosa devi fare? Più che essere titolare per il Paris Saint-Germain, avere i piedi, avere il cervello, avere la personalità, cosa devi fare? No, è impressionante questa cosa. Paradosso che ci trascineremo, credo, ancora per mesi. Grazie Paolo. Buona domenica. Ciao a tutti. Paolino, grazie. Ciao, grazie Paolo Condò. C'è chi chiede di spezzare una lancia a favore di Mazzarri, colpa degli infortuni, cosa poteva fare di più. Roberto da Vicenza, sì, hai ragione. Effettivamente sono tanti gli alibi che ha Mazzarri. Abbiamo tempo per parlarne. 800 24 00 24, ci fermiamo, pubblicità. Ciao ragazzi. Sono Alberto Tomba, se volete sentire tutta la novità sulla nuova stagione sciistica, allora non ascoltate tutti i convocati weekend. Non capisco un cazzo. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Sono anche gli interisti scontenti, Carlo, con il portafoglio vuoto era meglio aspettare ancora, e poi ingaggiare Mihajlovic. Interisti scontenti, ma come? Pierluigi da Monza. Cosa volete? Poi c'è un altro, Luca da Rimini, che scrive: beh, ci voleva un po' di pazienza e poi si poteva scegliere Sinisa Mihajlovic. Ancora? Sì, è ancora. 800 24 00 24. E poi Zenga e poi chi altri? Cioè, io veramente non li capisco, cioè. L'umore del popolo interista ha decretato l'esonero di Mazzarri e il ritorno di Roberto Mancini. Questi sono i fatti. Adesso sono ancora scontenti. Ma il calcio è strano, è materia liquida, come dice quello là che prima o poi lo troviamo, Pierluigi Pardo, e risponde non al telefono. Credo. Ruccio da Caserta. Ruccio. niente. Caserta. Roberto da Milano. Roberto. Buongiorno a entrambi a voi. Siete sempre complimenti per la trasmissione. Sei in giro a fare la ola per il ritorno di Mancini a fare i caroselli? No, io sono milanista. Sei milanista? Quindi è disperato. Quindi sei disperato. Non tanto. No, però... perché ho letto, cioè, o meglio, l'ha raccontato Cristian Vieri, che ha detto: ho sentito Inzaghi qualche giorno fa e si augurava che non esonerassero Mazzarri prima del derby. Ci credo. Beh, in effetti, da sportivo mi dispiace per Mazzarri, a me, guardi. Da sportivo o da milanista? No, da milanista, no, dico sinceramente, mi dispiace per Mazzarri, perché non mi sembra che abbia fatto male, perché al Napoli aveva fatto bene, insomma. E purtroppo, secondo me, penso che devo dare una scossa all'ambiente, hanno dovuto far questo, ecco, penso io, poi non lo so, magari mi sbaglio. Comunque, andando a maniera sul nazionale, sì. E, io sono d'accordo con quello che dice sulla Gazzetta di Boba, che sono d'accordo su quello che dice, che ahimè è un periodo, cioè è un po' di anni che le non c'è futuro per i giovani, non producono, diciamo, giovani per la nazionale, per i talentuosi nei vari club, e quindi son chiusi, insomma, da purtroppo troppi stranieri, ma non tanto buoni, insomma. Sì, adesso poi cambiano le regole, o forse no. Beh, non è, ci sono, non è detto che siano bene, giocano. Si diceva prima con Paolo Condò di Verratti, se ci sono e non giocano, non, nel Paris Saint Germain Verratti è titolare, trova spazio. Non è questione di produzione, c'è cioè De Sciglio che comunque è un ottimo talento ed è giovane, cioè io non vedo una situazione così totalmente disperata. Non vedo neanche questa, mi dà anche abbastanza fastidio questa sorta di dualismo tra giovani italiani che non giocano, stranieri che giocano. Torno a ripetere, come ho detto mille volte, nel calcio professionistico gioca chi è bravo, poi al massimo livello possibile i passaporti contano il giusto, cioè poco. Sì, detto questo, facevamo prima il confronto con Paolo Condò, nazionale italiana di questa sera, nazionale croata sempre di questa sera. Quello che noi invidiamo a loro è la qualità, il talento, la gioventù, forse anche la fame, o vedremo se Conte sarà stato capace di affamare questa nazionale. È arrivato Pierluigi. Oh. Pier? È arrivato l'arrotino, come va? Coltelli, forbici, ombrelli. È arrivato l'arrotino. È arrivato l'arrotino. Siamo alle prese con la parte di popolo interista insoddisfatto dell'arrivo di Mancini. Mai contenti, Pierluigi. Mai, non sono mai contenti. E voleva la testa di Mazzarri, ce l'hanno avuta. E volevano Mancini, adesso c'è chi dice: ma perché Mancini non Zenga? E perché non aspettare la fine dell'anno e prendere Mia? Mai contenti. Che vuoi fare? L'unanimità è un obiettivo irraggiungibile in ogni campo della vita, quindi credo che ci si debba muovere a maggioranza. Innanzitutto ci si debba muovere in generale seguendo i propri principi, i propri concetti e quello che pensi che possa essere utile e giusto. E questo credo che sia stato il principale motivo di questa decisione presa da Toir. Poi c'è ovviamente anche la componente della piazza, però mai come in questo caso veramente la piazza mi è sembrata anti-Mazzarri, quindi insomma sì, ci sarà poi qualcuno sicuramente. Io sono di quelli per esempio che pensa, con tutto l'affetto e la stima per Mancini, che Mazzarri abbia pagato oltre le sue responsabilità, o perlomeno abbia pagato oltre le sue responsabilità in campo. Sapete come la penso, come paga anche un certo atteggiamento cupo, malinconico dal punto di vista mediatico, le scuse che tante volte diventano goffe, quasi ridicole in certi casi. Sì, come l'hai visto ieri il mancio? Io ho notato in mezz'ora abbondante di conferenza stampa ha evitato accuratamente tutti gli alibi possibili, partendo anche dal fatto che lui arriva, non ha quasi tempo di allenare perché molti sono via con le nazionali, e poi al derby, poi all'Europa League, poi alla Roma, e lui ha detto: boh, al Galatasaray sono arrivato lunedì e mercoledì eravamo in campo per la Champions a Torino. Sì, fra l'altro alibi zero, risultato. Alibi zero. No, alibi zero sicuramente alibi zero. Credo che questo sia stato in qualche modo anche un input che è arrivato dalla società, e poi credo che faccia parte del DNA di Mancini. Mancini deve fare la rivoluzione, non può fare il Mazzarri bis, deve fare una rivoluzione tecnicamente complessa, perché comunque questa squadra ha dei limiti, e per quanto si possa spostare verso l'alto l'asticella, cosa che probabilmente accadrà, è difficile immaginare che possa rientrare in corsa per il terzo posto, secondo me. però insomma non mai dire mai della vita. E poi c'è l'Europa League che può diventare una simpatica terra di conquista, insomma, delle cose divertenti ci possono essere evidentemente in questa stagione. Però è chiaro che questa non è la squadra di Mancini, se la ritrova così è comunque un arrivo in corsa, così come era successo al Galatasaray, per cui chiaramente insomma è lì soprattutto per comunicare una mentalità di un certo tipo ai giocatori, più che per fare una rivoluzione tecnica o tattica, come direbbe Capello, su una squadra completamente sua. Sì, dell'Europa League non parlarne. Al prossimo ospite che saluto, Marco Bogarelli, presidente di Infront Italia. Buonasera Bogarelli. No, non parlategliene, perché ho letto questa settimana sulla Gazzetta dello Sport intervista. Io l'Europa League l'abolirei, non ha senso. Farei giocare sei italiani in Champions, perché paghiamo noi con le nostre TV. Che non è sbagliato come concetto, Bogarelli. No, ma voglio dire, guardando da un punto di vista business, se un business fattura 1,7 miliardi, l'altro 200 milioni, io qualche domanda me la farei, quindi voglio dire, era solo per quello, partecipare a un evento piuttosto che un altro fa evidentemente la differenza. L'Italia è uno dei paesi che contribuisce appunto di vista economica in maniera più rilevante, il fatto che abbia due squadre più una quantomeno non rende giustizia dal punto di vista economico. Pierre? No, io ho letto l'intervista e credo che insomma si può discutere di tutto della vita, ma è evidente che in un mondo che è in crisi a livello di congiuntura generale, e anche il nostro calcio è in crisi, poi c'è l'esempio dei diritti televisivi che è un dall'altro senso, no? Cioè noi assistiamo teoricamente a un paradosso: abbiamo delle squadre italiane che faticano a costruire reddito, fatturato, e abbiamo i diritti televisivi che sono in crescita. Volevo capire la famosa domanda delle 100 pistole: come si può pensare di competere dal punto di vista business con Barcellona, Real Madrid e Manchester United, oltre che vincendo, ma dal punto di vista infrastrutturale? Per esempio, c'era un passaggio nell'intervista in cui si diceva che gli stadi non di proprietà non devono diventare un alibi, cioè anche in questi si possono fare delle cose. Sì, assolutamente. Il fatto che lo stadio sia di proprietà, uno ce l'abbia in concessione per 50 anni, non è che cambia molto. In realtà è cosa fai nello stadio e che sviluppo dai allo stadio. Tu puoi essere in affitto, puoi essere proprietario, ma lo sviluppo e l'accoglienza di quello stadio e la capacità di attrarre pubblico rispetto ad altri intrattenimenti è un fatto che deve essere esercitato e sviluppato. Oggi in Italia è poco sviluppato. Oggi le alternative, soprattutto in una città grande che offre altre opportunità, tipo Milano, a Milano uno può andare al cinema, può andare alla Scala, può andare a teatro, può andare a vedere gli altri sport, può andare in bellissimi locali, ristoranti. Quindi deve avere un'attrattiva diversa allo stadio, non può limitarsi a dare un prodotto che è peggio di quello che uno riceve stando seduto a casa sul divano. Sì, è una bruttissima cartolina vedere San Siro, come abbiamo visto in queste settimane, sia con Inter che con Milan. Sono sempre stato convinto che sia un'associazione sbagliata quella di dire c'è il calcio in televisione e la gente non va più allo stadio. Non credo che sia così. Cioè, non, magari è forzata la mia opinione, però non credo che gli stadi italiani si siano svuotati perché ci sono le televisioni, perché questo succede in tutti gli angoli del mondo. Assolutamente, è il contrario esatto. Io vedo in televisione un bello spettacolo, ci voglio andare. È il contrario esatto. La televisione è un mezzo che promuove tutti i prodotti possibili e immaginabili. Lo vedo, mi piace, ci voglio andare. Se però quando vado ho un servizio che non è adeguato, forse non riesco a vivere un'esperienza come mi sarei aspettato guardandolo da casa. Sì. Tra l'altro posso dire, io sì, lo ripeto spesso, ovviamente Bogarelli ha più esperienza di televisione di me, però io qualche anno fa Sky e Mediaset l'ho fatto, io non ho mai conosciuto, lo ripeto, a parola proprio di scemo, non ho mai conosciuto un dirigente di Sky o di Mediaset che abbia brindato di fronte a uno stadio vuoto. Cioè lo stadio vuoto è una sconfitta e rende anche dal punto di vista strettamente televisivo il prodotto certamente meno intrigante, quindi toglie al prodotto televisivo i 10 o 20 mila spettatori in più che tu hai di potenziale cassa di risonanza a casa perché non sono andati allo stadio, sono più che compensati dall'effetto d'immagine che è drammatico. Che farete con la nazionale? Soprattutto che margini di crescita ci sono per il marketing della nazionale? Noi riteniamo molto importanti. La nazionale fino a poco tempo fa era un fatto vissuto tra le mura di casa, ossia molto, come sto parlando dell'aspetto commerciale, commercializzato molto all'interno del territorio italiano. Ecco, noi crediamo che, essendo uno dei 7 brand a livello nazionale più importanti del mondo, se poi guardiamo all'Europa, è la nazionale più vincente insieme alla Germania, riteniamo che l'audience del mondo interessata al calcio nazionale, nei momenti in cui si gioca il calcio nazionale, può polarizzare la sua attenzione sull'Italia, che è uno dei 7 brand più importanti del mondo. Ecco, questo sarà il nostro impegno, riuscire a far vivere la nazionale non solo dentro le pareti di casa, ma esportarla internazionalmente, perché è una delle poche eccellenze che abbiamo in Italia. Magari si abusa un pochino la parola eccellenza, ma la nazionale lo è veramente. Sì, oggi è un giorno particolare, circa un'ora fa è stato firmato un accordo tra Infront, la Federcalcio, il gruppo 24 Ore, che è il nostro gruppo e che per i prossimi 4 anni dividerà la sua strada come advisor commerciale insieme ad Infront e alla Federcalcio, proprio per cercare di riuscire a massimizzare il brand Italia legato alla nazionale, a tutte le sue attività. Poi ne parleremo anche dopo il GR delle 18 con il presidente della Federcalcio Tavecchio. Per chiudere volevo fare una domanda flash a Bogarelli, che è questa: discutiamo tanto dei talenti che la Croazia avrà stasera in campo, noi un po' meno e guardiamo con un pizzico di invidia. La Federcalcio sta studiando una sorta di chiusura, comunque dei limiti all'utilizzo degli stranieri. È o no un paradosso? Io ho letto nell'intervista alla Gazzetta che Bogarelli diceva il calcio è globale, bisogna aprire, la Serie A deve aprirsi. Sì, no, non è un paradosso, perché la nazionale, il lavoro che sta facendo la federazione, sono connessi evidentemente, ma la federazione sta facendo un lavoro proprio di qualifica di eventuali talenti che possono essere naturalizzati italiani. L'abbiamo visto con la nazionale tedesca ha formata da giocatori che provengono come nazione di origine, non tutti dalla Germania. Quindi il fatto che si possa aprire al mercato internazionale mantenendo però una coerenza nello sviluppo e nei talenti che la nazionale può andare ad ospitare, io non credo che sia in contraddizione. Si tratta di regolamentarla e far sì che stranieri non tolgano il posto, se sono stranieri buoni, a giovani di talento in Italia. È evidente che però forse un'occhiata maggiore ai vivai, un'attenzione maggiore ai vivai va data. Grazie Bogarelli. Grazie. Grazie. Prego. Grazie Marco Bogarelli, presidente di Infront Italia Traffico. Toir, ti prego, riprenditi Mazzari, grazie, veramente. Tutti convocati. Convocati. C'è chi dice che dopo 10 anni di TV ha deciso di abbonarsi allo Stadium. Viaggia da Viterbo a Torino una domenica sì, una domenica no, è dura ma ne vale la pena. Salutiamo questo amico. 800 24 00 24, Sandro da Napoli. Sandro. Sì, ciao Giovanni, ciao Carlo. Eccoci. Ciao, buonasera. Ciao, buonasera. No, io niente, l'avevo già previsto, l'esonero, perché come sempre Mazzarri non è da grande squadra, non è da Inter. E poi tra l'altro è arrivato nel momento peggiore, cioè nel momento in cui il presidente è diventato Toir, non c'è più Moratti a fare le interviste e ci doveva andare lui, insomma, davanti alla televisione. Quando invece a Napoli ci andava De Laurentiis spesso e volentieri, e adesso invece non ci va più, perché ringraziando di Dio ci va Rafa, che preferisco molto più del presidente. Sì, hai l'impressione, Sandro, che prendendo Mancini l'Inter si sia presa anche un uomo copertina, un uomo immagine, uno capace, lo ha fatto anche sì, 10 anni fa, che pure c'era Moratti, di andare davanti alle telecamere, duellare, litigare con la Juventus per gli arbitri. Ma sì, sicuramente sì, sicuramente sì. Da questo punto di vista ne ha guadagnato, non so poi sul campo come sarà, anche perché sinceramente a Mazzarri si possono riconoscere tanti limiti caratteriali, sicuramente a Napoli, io infatti non guardavo mai il post partita proprio a causa delle scuse che puntualmente si inventava quando il Napoli giocava male, però non credo non gli si possa riconoscere il il merito di dare sempre tutto per tutto, anche a volte a stare male, come è successo anche dopo la partita con Napoli, quando addirittura non è andato a parlare, insomma, alla televisione, questo sì. La sì. squadra è quella e niente, insomma. Anche se credo che Mazzarri verrà, secondo me, riconsiderato un po' più a freddo, Pier, magari tra qualche mese. Ma certo, a Mazzarri... La richiesta sì, è stata... Sicuramente. Prego, Pier. No, sentivo delle voci. Non succedeva. No. Vai, vai. No, Mazzarri ha 15 anni di carriera che parlano per lui. Come sentivo che dicevate anche prima di collegarci, perché io vi sentivo, c'è la famosa storia della materia liquida, e quindi in questo momento ci sembra improvvisamente che 15 anni di carriera ad alti livelli per Mazzarri siano stati cancellati da questo fallimento, da questa delusione. Secondo me, poi insomma, bocce ferme, tra qualche mese magari ci vorrà un po' di tempo, però Mazzarri avrà un'altra possibilità, magari se la giocherà bene, si toglierà le soddisfazioni che si è sempre tolto in carriera. Però insomma, questa qui non è una macchia da poco, non è una macchia da poco, soprattutto perché Mazzarri doveva fare il salto, secondo me, più extra campo che in campo, cioè doveva fare il salto per dimostrare di essere veramente un top manager, un allenatore capace di gestire un certo tipo di pressioni. Pure a Napoli c'erano, per carità, però insomma, questa era una conferma, e comunque è anche un ambiente un po' diverso, insomma, perché l'Inter è abituato, cioè l'Inter 4 anni fa ha vinto il triplete, lui quando è arrivato a Napoli ha preso una squadra che usciva dall'esperienza con Donadoni e che sognava di tornare in Champions League dopo tanti anni, e ci è riuscito. Quindi comunque sia, anche se le pressioni di Napoli non sono assolutamente inferiori, e anzi c'è stato un momento, e forse lo è ancora adesso, che se dobbiamo vedere la grande fra le due, no? Quella che ha più possibilità di andare avanti è probabilmente più il Napoli dell'Inter, però la storia, il vissuto dei tifosi è completamente diverso. Lui all'Inter doveva riuscire a riempire un vuoto che non si è ancora mai riempito dai tempi di Mourinho, e non ci è riuscito. E non ci è riuscito per degli errori commessi in campo, ma anche per l'assoluta incapacità di entrare in sintonia con i tifosi. Sì, non è però solo colpa sua. Però abbiamo tempo ancora di parlarne. 800 24 00 24. Torniamo subito dopo il GR delle 18. Quote e pronostici. Questa sera va in campo l'Italia di Conte nel girone di qualificazione a Euro 2016. Di fronte agli azzurri, alle 20.45 allo stadio di San Siro, c'è l'avversario più duro del girone, ovvero la Croazia, che verosimilmente si giocherà il primato con gli azzurri. Nel gruppo di qualificazione vediamo dunque le quote SNAI per la gara di San Siro. L'1, la vittoria degli azzurri, è quotata a 2.20, l'X è a 3.15, il 2 invece, con la vittoria croata, è quotato 3.40. Interessante la quota del gol, che è abbastanza alta ed è quotata 2.07, no gol a 1.68. Nel girone dell'Italia, in campo sempre alle 20.45, Bulgaria-Malta a Sofia. L'1, la vittoria dei bulgari, è quotata 1.17, l'X invece è a 6.50, il 2 è quotato 16. Sempre alle 20.45 a Praga c'è Repubblica Ceca-Islanda, 1 a 1.75, X a 3.40, 2 invece quotato 4.85. A Tel Aviv invece in campo Israele-Bosnia, 1 quotato 2.55, X a 3.20, 2 quotato 2.70. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Tutti convocati. Convocati. E allora è la sera di Italia-Croazia, dei 65.000 di San Siro, 6.000 croati, speriamo che vada tutto bene. Oggi, lo avete sentito anche nel nostro notiziario, un giorno particolare per il nostro gruppo, perché da oggi per 4 giorni inizia la partnership con la Federcalcio, per 4 anni, sì. Sembrano pochini. Sì, un po' pochini. Inizia la partnership con la Federcalcio, gruppo 24 ore, advisor commerciale, un paio di ore fa la firma. Carlo Tavecchio, presidente della Federcalcio, buonasera. Buonasera. Come mai avete scelto il gruppo 24 ore? Abbiamo scelto un gruppo che ha un partenariato con Infront, perché vogliamo passare da una posizione di difesa a una d'attacco. Credo che il futuro nostro marchio debba essere più esportato, anche in condizioni di maggiore capitalizzazione, questo che abbiamo ottenuto, e per questi motivi abbiamo scelto i vostri gruppi. Sì, è un pezzo di quel discorso fatto quest'estate che vi ha portato anche a scegliere un top manager come Conte. Sì, è stata una prima iniziativa quella di arrivare a investire sul nostro risultato, che è più importante, che è quello agonistico, no? l'agonistico, il problema è uno solo, che avevamo bisogno di dare una scossa, di trovare quello che io chiamo un condottiero. Si è reso disponibile Antonio Conte, abbiamo trovato una strategia comune, un interesse reciproco, perché noi volevamo un grande mister, lui voleva una nazionale, e quindi praticamente abbiamo fatto questo, perché il ragionamento era una convenienza reciproca. Tanto, Presidente, bisognerebbe battezzare questo evento con una partita importante questa sera, ma è difficilissima. Guardi, noi abbiamo una partita importante questa sera con una squadra che ha risalito sempre più il ranking internazionale nelle prime 20 come noi, però comunque io sono molto fiducioso. La nostra nazionale, nonostante quello che praticamente ha fatto in Brasile, ma con una nuova motivazione, con un nuovo modo di approcciarsi alle partite, credo che diventerà una delle nazionali importanti, quindi non possiamo permetterci di aver battute d'arresto. Pardo. Ci sono, lei uomo di numeri, ci sono degli scenari dal punto di vista commerciale, cioè c'è un numero di obiettivo, passare da X a Y negli introiti di carattere commerciale della nazionale? Guardi, noi abbiamo messo una cifra importante, un tetto che si aggira intorno ai 70 milioni. Il problema è vedere, intanto abbiamo una garanzia consistente quasi dell'80-90%, quindi siamo messi bene. Naturalmente dipende molto non solo da advisor, ma dipende anche dai risultati della nazionale, dipende tutta una serie di cose, dalla correttezza della federazione e dell'autority che la federazione intenderà assumere in futuro, perché a mio avviso era un po' diminuita questa autorità. Lei a San Siro già ci sta andando? Sto andando, sono in mezzo al traffico per San Siro, sì. Senta, sono 3 mesi di Conte, ora più ora meno, perché è il 16 novembre, se torniamo indietro eravamo poco dopo Ferragosto. Ce lo fa il suo bilancio di questi 3 mesi? Beh, ha fatto 4 vittorie, cosa si vuole di più? È un uomo positivo, uno che carica a 1000 i calciatori, li motiva, e poi li segue soprattutto dal punto di vista fisico-atletico, oltre che da quello tecnico. Ha fatto molto rumore la convocazione di Balotelli, Presidente, che è già tornato a casa. Come l'avete visto? Balotelli, quando mi ha telefonato, gli ho chiesto le motivazioni, ma non perché io le debba chiedere, ha detto che lo voleva testare. È venuto in Italia, ha giocato, si è preparato, mi dicono, col puntiglio, ha un problema fisico, è normale che inizia a tenere i giocatori che giocano all'estero in Italia se hanno degli acciacchi. Quindi ci può aiutare a dire che quello che viene scritto oggi tra le righe da qualche giornale, cioè che si tratterebbe di un infortunio diplomatico per evitare la panchina, non risponde al vero? Guardi, che io il processo, le intenzioni... Così lo chiariamo. Per quanto ci risulta, il dottor Castellacci ha detto che il giocatore è un sentimento inguinale, quindi finita lì. Tutte le altre sulle congetture. Pier, se hai un'ultima domanda, poi lo lasciamo. Sì, due in una su De Rossi, 100 gettoni, e la seconda su Genova, che significa martedì l'Albania... c'è una componente commerciale, quella da cui siamo partiti, ma c'è anche una componente simbolica che questa nazionale ha di fronte ai problemi grandi e piccoli del paese. Per quanto riguarda De Rossi, più che mettersi, togliere il cappello, un giocatore che è dato tanto presente in nazionale con serietà, competenza, passione, come De Rossi, noi siamo molto contenti e credo gli auguriamo altri 100. Per quanto riguarda invece la città di Genova, c'è stata una consultazione oggi molto fitta tra la prefettura e il sindaco, perché noi abbiamo dichiarato che davanti a una presa di posizione dell'autorità politica e dell'autorità di pubblica sicurezza noi manteniamo i patti. Ci hanno detto che tutto è possibile e tutto è sistemabile, quindi noi andiamo a giocare. E quindi martedì si va a giocare. Grazie Presidente. Grazie Presidente. In bocca al lupo per questa sera. Traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Insomma, abbiamo sentito il presidente Tavecchio. Intanto saluto Marco Belinazzo che ci ha raggiunto. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. Ha fatto chiarezza Pier, anche su Balotelli. Oggi c'erano tante versioni della sua partenza da Coverciano. Ha detto tutte le azioni. Castellacci mi ha raccontato che non sta bene e non aveva senso tenerlo con la nazionale. Poi vedremo che cosa sarà di Balotelli e della sua avventura. Alla prossima convocazione. Pier. Sì, questo senz'altro, però voglio dire, nel momento nel quale Castellacci, che provveduto ma è lo storico medico della nazionale, protagonista di tante avventure, trova l'affaticamento muscolare, lo trova appunto, quindi poi veramente andiamo nel campo delle chiacchiere. Insomma, prendiamola così, prendiamola per buona, cioè, già siamo in un'epoca nella quale sono caduti i muri, le ideologie, non abbiamo certezza, se stiamo qua pure a discutere un referto medico di un medico oltretutto che conosciamo, non crediamo più a niente. Sì. Senti, ma in questi giorni si dice torna all'Inter, no? Cosa? Torna o no, secondo te, all'Inter? Balotelli? Sì. Perché, sì, di Balotelli può succedere qualsiasi cosa. Per ora il vero paradosso della carriera di Balotelli è i suoi errori e i suoi fallimenti non si sono tradotti in una diminuzione degli stipendi, ma anzi paradossalmente in un aumento. Perché ha sempre trovato delle nuove società e degli allenatori, come quelle mogli o quei mariti cornuti che però continuano a pensare io ti cambierò. Però è che non va la linea telefonica di Pierluigi Pardo, proviamo a recuperarla. Intanto saluto Dario Simic. Ciao Dario. Ciao, buonasera a tutti. Ho 100 presenze con la nazionale croata nel periodo d'oro, quello del terzo posto al mondiale del 1998, quello che Boban ha raccontato anche questa settimana in una bellissima intervista sulla Gazzetta dello Sport. Dario, come la vedi stasera la partita? Sì, partite Italia-Croazia sono sempre belle, sono Italia è sempre una grande squadra, comunque penso che 4 volte avete vinto campionato del mondo, cosa si deve dire di più? Però Croazia ha giocato sempre bene contro l'Italia, così credo anche stasera. Noi abbiamo dei buoni giocatori come Modric, Mandžukić, Srna, Čorluk, abbiamo una buona generazione che ha maturato e potrebbe giocare molto bene. Sì, bel gruppo quello della Croazia. È un gruppo che ha nelle sue corde, secondo te, di avvicinarsi a cosa siete stati voi alla fine degli anni 90? Sì, non sarà facile perché noi avevamo un bel gruppo subito dopo che Croazia era stato un paese giovane, siamo stati caricatissimi, sarà difficile di ripetere questo, però questi ragazzi giocano tutti, sono tutti protagonisti nelle loro società, Modric Real Madrid, Rakitic Barcellona, Mandžukić Atletico, comunque dopo tanti anni si potrebbe ripetere, diciamo, quello che abbiamo fatto noi. Come la vedi la nazionale italiana invece? La nazionale italiana non è più come prima, ma mancano questi grandi giocatori, grandi nomi tipo Baldini, Nesta, Totti, Cristian Vieri, Roberto Baggio, non è più come prima assolutamente. Penso che il calcio italiano è un po' in crisi, però comunque sono una buona squadra, penso che avete un buonissimo allenatore, bravissimo, che può dare qualcosa in più a questa squadra. E questo, penso che il calcio italiano merita un po' di più, che bisogna fare qualcosa, se no rimanete o rimaniamo, anche io mi sento mezzo italiano, rimaniamo un po' indietro rispetto alle altre. Continui a sentirti mezzo italiano. Marco Belinazzo. Avevo un piccolo interesse, perché non è stato citato prima, Perisic. Perisic orbita Napoli, si dice. Napoli. Tifoso del Napoli, Marco Belinazzo. Dario, com'è questo Perisic? Bravissimo giocatore, destro e sinistro, segna tanti gol, bravo, a me piace. Sì, costicchia, Pier, ti abbiamo recuperato? Potrebbe andare bene per Napoli. Potrebbe andare bene, Pierluigi, vai. Ma ti mancano quegli anni lì, gli anni d'oro del grande Milano, anche della grande Inter, insomma, comunque anni in cui il calcio italiano competeva a certi livelli, in cui tu eri protagonista e soprattutto vista da fuori. Che cosa dobbiamo fare al di là del discorso generazionale che facevi? Ovvio che non è che abbiamo più Baldini o Nesta, però che cosa dobbiamo fare? Sì, sarà, comunque mi manca il calcio italiano, sono stati tempi bellissimi dal 99 fino al 2008, se anche col Milan abbiamo vinto due Champions League, una volta in finale, due volte in semifinale, con un gruppo splendido, Maldini, Nesta, Pirlo, Gattuso, Ancelotti. È difficile, difficile anche vivere senza di questo, difficile anche trovare i nuovi stimoli. Calcio italiano bisogna investire nei giocatori italiani, prima di tutto devono giocare, tutte le società devono avere una base di giocatori italiani, ritornare di riprodurre i grandi giocatori italiani come una volta, poi dopo investire sicuramente nelle infrastrutture, di fare i nuovi stadi, e secondo me anche il paese Italia deve aiutare il calcio, magari mettere meno tasse o qualcosa così, che sarà un po' più facile per comprare magari giocatori di alto livello. Sì, mette un po' tristezza vedere Milano come si è ridotta, vale per il Milan, vale per l'Inter, vale un po' in generale per la crisi di una città, almeno calcisticamente parlando, una città che conosci bene. Tu hai giocato sia per l'Inter che per il Milan, come lo vedi il derby di domenica? Fermo adesso è una bella cosa per l'Inter, sicuramente mister Mancini, che è un buonissimo, bravissimo allenatore, che potrebbe dare qualcosina in più per l'Inter. Sono tutte e due squadre, magari squadra vedo un po' meglio quella dell'Inter. Non sono come prima, assolutamente. Sicuramente anche e soprattutto loro, Milan e Inter, meritano di più. Sì, meritano di più, ma il calcio italiano ha bisogno delle due squadre di Milano, Dario. Quindi, secondo te l'Inter ha fatto bene a cambiare rotta tra Mazzarri e Mancini? Era il momento giusto? Era una cosa da fare? Assolutamente sì. Penso che Mancini abbia fatto bene prima volta con Milan. Ma bisogna fare i progetti, se non hai soldi non è facile fare le grandi cose. Milan e Inter prima sempre portavano i migliori giocatori del mondo, adesso non possono più, adesso vendono. Mai Milan ha venduto uno come Ibrahimovic, Thiago Silva, adesso sono destinati a loro a produrre i giocatori che non hanno fatto mai. Pier. Adesso se fanno così bisogna veramente essere fortissimi di fare i miracoli, di vedere un giocatore prima che li vedano altri e poi magari vincere il Champions League, ma è così, è difficile. Pier. Sì, volevo capire innanzutto per i rumori, che c'è, bambino? Tre bambini, due, Rocco, Vittore e Nicolas, sono nati 2003, Manchester finale abbiamo vinta, Vittore purtroppo abbiamo perso quella finale 2005 con Liverpool e Nicolas 2007 con Liverpool abbiamo vinto. Che stavo con dottor Galliani, ho detto se vuole investire nel pannolini, magari anche 2009 se comprava i pannolini facevo quarto, così mi giocava in finale ancora una volta. Beh, non è male come ricetta, Pier. Sì, ma Ancelotti continua a vincere, quello è il calcio italiano che non passa mai di moda. Che effetto ti fa vederlo incassare qualche volta delle... Ancelotti è una grande persona, sono stato con lui 6 anni, è stato bellissimo, una persona che ti mette a tuo agio, che ti aiuta, che è una bravissima persona, non è caso ha vinto anche con Real Madrid e con gli altri, sì. Bravissima persona e bravissimo allenatore, mi dispiace perché per esempio c'è posto a Milan per Paolo Maldini, mi dispiace che lui non aiuta la società, non si mettono d'accordo, perché Milan ha bisogno di questi grandi campioni, ci vogliono tante persone per fare una buona squadra, uno di questi Paolo Maldini, che io veramente non posso capire come una persona come Paolo Maldini ancora non lavora per il Milan. Sono misteri che ci portiamo dietro dal giorno del ritiro. Per chiudere, Dario, come finisce stasera? Spero 2-2. per il 2-2. L'ha detto che è mezzo italiano. Rocco, l'hai sentito Rocco, dietro. Catalogati figli in funzione delle Champions. Credo che 3-2 per la Croazia, però dico 2-2 perché sono stato 10 anni a Milano. Okay. Grazie Dario. Ciao, Dario. Grazie Dario Simic. 100 partite con la nazionale croata, 100 partite e 3 gol, perché poi è vero che c'era Boban, c'erano tutti gli altri, ma c'era anche Simic. Però Simic è stato un pezzo importante della nazionale croata. Ci fermiamo? C'è la pubblicità, poi torniamo. Tutti convocati. Convocati. E intanto c'è la notizia: Federer non giocherà la finale dei Masters di Londra per problemi alla schiena. E con questo rispondiamo alla curiosità di Aldo, camionista, che ci chiedeva di essere aggiornato sul risultato della finale. Finale che non ci sarà perché Federer si ritira per problemi alla schiena. Marco Bellinazzo, reduce dalla firma dell'accordo tra il gruppo 24 ore, la Federcalcio e Infront, che cosa succede? Succede che la nazionale avrà due nuovi advisor, uno è il gruppo 24 ore, insomma siamo in qualche modo parte in causa, ma è l'azienda, insomma la parte commerciale, e Infront, che raccoglieranno per il prossimo quadriennio, quindi 2015-18, il quadriennio che ci porta a Russia 2018, gli sponsor, escluso Puma, lo sponsor tecnico che ha già rinnovato per il 2018. L'idea, c'è stata una gara, insomma ovviamente non è stato concesso a Infront e gruppo 24 ore in maniera automatica di fare questa attività, ma è stata vinta una gara, c'è un minimo garantito di 57 milioni nel quadriennio, e ovviamente l'augurio di tutti è che questo tipo di accordo permetta alla nazionale di raccogliere più sponsorizzazioni di tipo internazionale, di respiro internazionale, perché il brand Italia è un po', forse ce lo siamo dimenticati anche per l'infausta partecipazione a Brasile 2014, è uno dei principali brand a livello di nazionale. Io prima venivo in metropolitana, ho fatto un simpaticissimo viaggio schiacciato tra alcuni croati, che tra l'altro sono enormi, sono croati, grossi, non so se li avete visti, ma da vicino i croati sono almeno alti 1,80 e pesano 110 kg, o almeno così sono quelli che mandano a vedere pieni, le partite. Meglio non avere niente a fare. Io ho evitato, insomma, sono sceso due fermate prima per evitarli. Quantomeno meglio. Comunque evitare di verbi. Hanno tutti, dico una banalità, ma hanno tutti la maglia della Croazia. Sì. Io non ho visto nessuno con la maglia dell'Italia, e questo insomma può essere uno di quei gap che il calcio italiano deve superare, e valorizzare il brand nazionale italiano all'interno di un progetto che è quello di rilancio del Made in Italy, delle missioni che portano a esplorare nuovi territori anche per le aziende italiane. Può essere un vantaggio avere come sponsor la nazionale per questo tipo di attività. Insomma, andiamo un po' oltre il calcio, però il segnale che anche il gruppo vuole dare è quello di un'attenzione al calcio come sistema industriale. Se non ritorniamo in Italia a pensare, anzi se non iniziamo, perché forse non lo si è mai fatto, al calcio come sistema industriale, come sistema che può produrre valore, non avremo più quei fasti che raccontava prima Simic di finali, semifinali continui in Champions, ma dovremo accontentarci insomma di guardarle alla TV. Sì, non siamo più tanto fighi come dice Pardo. Non torneremo più al momento in cui bastava fare un figlio per arrivare in finale di Champions. Questa è la bassa natalità italiana, gli spiega anche così, non so. Sì, vi faccio sentire Benito Benedini, che è il presidente del gruppo 24 ore, e che insomma ha raccontato così perché il gruppo ha scelto di essere partner della Federcalcio. Sì, direi che per il nostro gruppo 24 ore è una cosa molto importante, perché entriamo in un settore, diciamo, importantissimo, perché ormai sappiamo benissimo che il calcio e quant'altro sono ormai delle industrie, e tra le prime industrie nazionali, quindi era giusto che anche solo 24 ore si occupasse da un punto di vista economico e non solo di questo settore. E da lì la decisione soprattutto di affiancarci con un gruppo come Infront, che naturalmente è fonte di garanzia anche per il raggiungimento dei budget, che direi sono abbastanza ambiziosi, che abbiamo firmato in contratto. Il calcio come primo passo, nel senso che sport e economia sono sempre più interconnessi e magari una professionalità, una competenza specifica possono essere sempre sicuramente più sicuramente il calcio è importante anche per la massa che coinvolge, gli altri sport magari coinvolgono di meno, però non è mica detto, sai, quando si comincia poi su una strada poi ci si apre e poi ovviamente potrebbe essere interessante anche vedere altri sport, quindi nulla è precluso. Insomma, questa era la voce del gruppo 24 ore in epoca di tagli che hanno riguardato anche la Federcalcio, più che mai importante cercare di massimizzare il profitto. Abbiamo sentito prima il presidente della FIGI Civitavecchia che ha detto è un pezzo di quel progetto nato quest'estate, anche ingaggiando con lo stipendio che ha un top manager come Conte, che serviva da boost per riaccendere l'entusiasmo intorno alla nazionale. Assolutamente sì, si era parlato tantissimo anche, ricorderai Giovanni, dell'intervento negli sponsor di Puma in particolare per finanziare l'auto ingaggio di Conte, per il quale io non mi sono scandalizzato, così come non mi scandalizzo il mercato, Marco, il mercato lo sai perfettamente, a patto che però poi, come dire, quei dirigenti che sbagliano siano i primi a pagare, essere allontanati e non, come dire, ampiamente remunerati anche per l'allontanamento dopo aver combinato disastri. Ovviamente ci auguriamo che questo non sia il caso, ed è questa anche la logica che ha pervaso, secondo me, scelte come quella dell'Inter con la sostituzione di Mazzarri a Mancini, al di là dei costi, insomma, so che ne avete parlato, ma dobbiamo abituarci, insomma, a questa logica che anche il mercato, per mercato intendiamo tifosi, sponsor, tutti quelli che ci mettono i soldi, hanno bisogno di figure di riferimento. Poi non vedo perché uno dovrebbe andare ad allenare la nazionale italiana per una cifra inferiore al suo valore di mercato, cioè, sarebbe veramente un controsenso, cioè, scendi, cioè, è calcio, cioè, c'è un mercato, piaccio o no, Questi sono i valori e Conte guadagna quello che si è meritato di guadagnare. Sì, a proposito di grandi ingaggi, quella di Mancini e dell'Inter con Mancini sembra una scommessa senza possibilità di fallimento. Conosciamo i conti dell'Inter, conosciamo la problematica di essere un club che alla fine pagherà il suo staff tecnico quasi quanto il Real Madrid, che è un paradosso. Assolutamente, però c'è un progetto, diciamo, che non ha ritorno, che è il progetto finanziario e industriale dell'Inter, e a questo progetto si accompagna quello tecnico di Mancini. Mancini costerà netti 3 milioni e mezzo sui 3 anni per ogni anno, ovviamente, più il suo staff. Significa aver affidato le chiavi di un progetto che deve portare l'Inter il più rapidamente possibile in Champions, perché solo in questo modo tu puoi attivare quelle voci di ricavo aggiuntive per le quali tanto Toir si è speso e che possono riportare l'Inter, come si augura il patrono indonesiano, nei primi 10 club al mondo. Il problema è che a 50 anni fa l'allenatore, non fa più il giocatore. Sì, questo è il problema dell'Inter. Facesse il giocatore li varrebbe sicuramente tutti i 3 milioni e mezzo. Sì. Poi sui giornali c'è la lista della spesa, Cerci, Darmian, Balotelli, La Mela, abbiamo sentito prima Paolo Condò, poi faremo due conti. Ti faccio sentire una cosa, Marco. Quello che ho visto lo tengo per me, ecco, quindi mi sono fatto un'idea. Adesso Balotelli non c'è più, quindi è inutile parlare di Balotelli. Non si tratta di un risentimento muscolare, bensì di un'infiammazione nella zona pubica. Ieri non si era allenato, anche oggi lamentava fastidio, non poteva allenarsi, quindi è inutile tenere gente che non può allenarsi, quindi ho preferito mandarlo a casa. L'ho valutato così come ho valutato i nuovi, Soriano, Bertolacci, Bonaventura, Moretti, Rugani stesso, ecco. Titolo in picchiata, quello di Balotelli. Un bel messaggio, no, questo di Conte, parlare di Balotelli insieme a Rugani. Sì, gli spiega che è the normal one e non è più Super Mario. Mi pare abbia detto qualcosa di simile ieri anche Mancini, però la domanda che si fanno gli interisti è: ci sono i soldi o no? C'è la possibilità o no di fare mercato a gennaio o in estate? Ci sarebbe, volendosi assumere, diciamo, enormi rischi, però d'altro canto diciamo, chi vuole guardare le cose realmente, non con l'occhio del tifoso, deve rendersi conto che l'Inter è un'azienda che ha fatto, come dire, il massimo investimento possibile sul futuro in questo momento, quindi con una serie di obblighi finanziari che comunque pesano sul bilancio, ha fatto un investimento importantissimo sul progetto tecnico, specie se Mazzarri non troverà squadra nel 2016, ed è chiaro che a quel punto qualsiasi tipo di investimento, cioè colpi per intenderci alla Hernanes, da 20 e passa milioni più 4, 5, 6 milioni di ingaggio lordi, insomma ne potrà fare uno, se ne farà due dovrà andare assolutamente per prossimi tre anni in Champions, altrimenti diventa veramente difficile. Sempre aspettando il verdetto della UEFA, perché poi potrebbe anche arrivare a un limite al saldo di spesa, quindi in realtà potresti essere costretto a vendere prima di comprare qualunque campione. Che sarebbe un aiutino della UEFA a Toir, almeno per la piazza, così almeno avrebbe una scusa, ce lo dice l'Europa, sì, ce lo dice la UEFA. La piazza che è la vera amministratrice delegata dell'Inter, no? Perché è così, quindi la piazza chiederà a Toir rinforzi, e Toir, se strillerà forte Toir glieli prenderà. Infatti, fino adesso la piazza ha dominato le mosse strategiche. Assolutamente, infatti io credo che una delle mosse più sbagliate fatte da Toir, e lo dico al di là del valore tecnico del giocatore, è stato spendere 22 milioni e passa per Hernanes a gennaio, quando diciamo non si poteva ancora vedere e delineare un progetto tecnico alla Mancini, no? Quindi sì, è stata una mossa per la piazza, sappiamo tutto quello che è successo nel mercato di gennaio. Vucinic, la piazza che stoppa quella trattativa, allora poi deve arrivare un altro giocatore, allora c'è Hernanes, si prende Hernanes, la cui utilità all'Inter è sempre stata abbastanza misteriosa. Sì, intanto anche la Roma fa come ha fatto Toir, sì, questo per rispondere anche a tante perplessità che sono state espresse in questa settimana. C'è chi diceva: ma come carica tutto il debito sulle spalle dell'Inter, la mette in pegno alle banche? Beh, la Roma di Pallotta ha fatto più o meno la stessa cosa. Sta per farlo, nel senso che l'ha comunicato il CDA che ha intenzione di fare questo tipo di operazione. Vedremo poi in che termini e quali saranno appunto le condizioni economiche alle quali sarà fatto questo rifinanziamento. C'è da dire che due proprietari stranieri abbiamo e non mettono soldi ma caricano i debiti le società. Sarà anche legittimo, sarà una scelta industriale, però questo è. Sulla via Emilia il calcio italiano conosce momenti di crisi con Tacopina che non ha ancora trovato, diciamo, fideiussioni e soldi per il Bologna. Il Parma sappiamo in quali condizioni è. C'è il rammarico, insomma, di non vedere arrivare in Italia investitori, diciamo, dall'estero che ci vogliono mettere i soldi davvero. Sì, situazione del Parma che merita di essere approfondita. Facciamo i pronostici. Che succede? Facciamo i pronostici. Italia-Croazia. Scusate, ricominciate sempre i pronostici senza di me. Sì, veramente stasera è uno il pronostico. Stasera un posticipo di campionato in cui prevedo grandi defaianze. Non c'è nessun posticipo di campionato. Sarà un bellissimo derby e Mazzarri deve assolutamente vincere. Stasera c'è la nazionale. C'è la nazionale. C'è posticipo, non c'è neanche più Mazzarri. No, Mazzarri non c'è più, eh. Ah sì? Sì. Beh, è una garanzia sicuramente. C'è Mancini. Ah, Mancini. È una persona importante, arriva dal Manchester United che è una squadra molto, molto importante. È importante, è una squadra. Dire la verità, arriva da casa sua. Sì, perché... ma poi ha fatto il City, non ha fatto lo United, poi ha fatto il Galatasaray. Dai, comunque, questa sera c'è la nazionale. Dai, pronostico sulla nazionale. Allora, va bene, allora passiamo a un pronostico importante. L'Azerbaigian è una squadra temibile, scontrosa, veramente una partita piena di trabocchetti. Veramente giochiamo con la Croazia. C'è l'Azerbaigian. Sì, con la Croazia. Giochiamo con la Croazia. Voi giornalisti? No. No, no, non noi. No, gioca la nazionale, l'Italia. Ah, sì? Sì, sì. Come vedi, Serse, come vedi la Croazia? Croazia. Sì, Italia, come vedi la Croazia? In televisione, vedo in televisione. No. Perché non sono presente a San Siro. Ma tutte le domeniche così. No, come vedi la Croazia, la squadra? Ma tecnicamente ad esempio mi piace molto Kolarov. Sì, Kolarov. È serbo? Un ottimo portiere, sì. Un ottimo portiere, Andanovic. Sì, che sicuramente che ne ha presi tre ieri. Cazzo, ma fra tutti sti slavi manco uno croato. Insomma, Mandžukić, quello del Mandžukić, questo grande difensore del Bayern, è veramente difficilissimo che è un attaccante da superare, che gioca nell'Atletico Madrid. Gioca nell'Atletico. Ce lo fai il pronostico o no? Allora, stasera vince la Norvegia. Sì, va bene, la Norvegia. Dai, ciao Serse. Ciao traffico. Serse. Ma il pronostico. No, traffico. Tutti convocati. Tutti convocati. Ma Serse Cosmo o Andro Mercù? No, era Andro Mercù. Ho l'impressione che non ce ne liberiamo. No, ho l'impressione che non ci... Me lo fai il pronostico, Marco Bellinazzi? Italia-Croazia. Italia-Croazia di che questa sera. Vedi, Norvegia. Che tu non vedi perché vai al cinema. Ma non ci, sai, il calcio, insomma, non mi interessa più di tanto. Insomma, a te interessa solo Napoli. Altri sport. Cosa vai a vedere? Non so, sceglierà mia moglie. Ah, vabbè. Ma al di là di questo, io... Cioè, dopo che ho visto i croati da vicino... meglio il cinema. Meglio il cinema e sono... Non vorrei essere nei giocatori italiani in campo perché se sono così grossi. Quindi dai, un pareggio va bene. Sì, un pareggio. Così sono tutti contenti, oggetto del contendere. Non lo facciamo andare al cinema finché non ci ha detto cosa succede al Parma, perché girano voci allarmanti. Sì, la situazione è tutt'altro che, come dire, confortante. Io i dati del bilancio 2014 non ci sono ancora, quelli del 2013 mostravano già delle tendenze, diciamo, molto negative, con costi che aumentavano di 20 milioni e ricavi che scendevano di 20. Sai che c'è stata questa politica del Parma di acquistare 200-300 giocatori che poi dava in giro a varie consociate come il Nova Gorica, il Gubbio, e chiaramente gli ammortamenti pesano. Il problema sul Parma è che non si è capito cosa voleva fare da grande. Ho l'impressione che siano stati fatti, diciamo, i classici passi più lunghi della gamba, e che la situazione, insomma, se non si trova un acquirente, potrebbe l'anno prossimo, insomma, vedere il club non più in Serie A, al di là dell'aspetto sportivo, e sarebbe davvero un ennesimo colpo, brutto colpo per il calcio italiano. Sarebbe un peccato. Grazie Marco. Grazie a voi, Marco. A presto. Grazie. Ciao. Marco Bellinazzo. Da Marco a Marco, visto che i croati sono grossi, noi convochiamo Marco Bortolami, uno dei recordman della nazionale di rugby. Ciao Marco. Buonasera a tutti. Mandiamo te, se sono grossi. Li vediamo passare qui sotto, sono davvero dei giganti. Come se la cava la Croazia rugby? Male? Non c'è? Ma sì, no, non abbiamo mai giocato contro di loro. Non so, magari anche una squadra esiste, però che io sappia... Non pervenuta. Insomma, no, non pervenuta. Ma per fortuna nel calcio non conta solo il fisico, dai, non è come nel rugby dove è una parte molto importante. Nel calcio conta di più la tecnica, la velocità e la scaltrezza, per cui direi che abbiamo le carte in regola, dai. Senti, mi sembra bene la Little Rugby. Due test match, una vittoria, una sconfitta onorevole, che è brutto come termine, ma significa che siamo rimasti lì con l'Argentina fino all'ultimo. Sì, rimane un po' così. È una partita che potevamo gestire sicuramente per vincere con un po' più di serenità e lucidità, però ci è mancato quel qualcosa in più. Il rammarico più che altro sta che nelle occasioni che hanno sfruttato gli argentini sono venuti un po' dalle nostre imprecisioni, e questo ovviamente non è mai la cosa ideale, però insomma, dopo la vittoria contro Samoa volevamo riconfermarci a un certo livello, e la squadra credo abbia giocato una buona partita. Detto questo, bisogna anche chiudere il cerchio e ottenere le vittorie che sono a nostra portata. Sì, giusto arrabbiarsi, giusto arrabbiarsi quando si perde, c'è l'Argentina, siamo stati in partita, eccetera eccetera, però io credo che per il rugby italiano sia arrivato il momento di incazzarsi brutti se si perdono le partite. Ma sì, è uno scatto, anche un salto di qualità culturale e anche dei giocatori. Esatto. Credo che le sconfitte, quando un avversario è più forte, vanno accettate e bisogna lavorare. Le sconfitte quando un avversario è alla tua portata e magari gli regali anche qualcosa, ci devono fare arrabbiare per avere ancora più determinazione. Ripeto, comunque si tratta di una partita di rugby e si guarda sempre avanti, però ecco, c'è la consapevolezza in noi che potevamo fare qualcosina in più che forse voleva dire vittoria. Comincia a darvi un po' fastidio questa etichetta di perdenti, ma con onore, che vuol dire essere di moda, essere un bel simbolo, essere anche famosi, noti, però è arrivato il momento di fare il salto di qualità. È cambiato qualcosa rispetto all'anno scorso? Chiuso con bilanci numerici predisastrosi. Ma guarda, innanzitutto perdendo con onore a noi, cioè, non è che piace, perché noi giochiamo per vincere, ovviamente. È chiaro che se poi vai a analizzare e chiedi se la squadra ha dato sempre tutto dal punto di vista mentale, motivazionale, di energia e di anche così voglia di fare il proprio meglio, questo penso non sia mai mancato all'Italia, e quella è sicuramente una buona base di partenza. Poi per vincere le partite serve ben altro, e noi abbiamo il dovere di portarlo in campo. Rispetto all'anno scorso, insomma, abbiamo recuperato qualche giocatore infortunato. Comunque nella vita di ogni squadra e così di ogni ciclo ci sono dei momenti un po' così, un po' no, magari, dove delle piccole cose non girano a tuo favore, e bisogna sempre rialzare la testa e continuare a lavorare più duramente, come abbiamo fatto. Credo che abbiamo dato dei buoni segnali in questo novembre, stiamo rimettendo in ordine alcune cose. È chiaro che i nostri avversari non stanno lì a guardare, ad aspettarci, e fin da sabato contro il Sudafrica sarà un'altra partita difficilissima. Marco, nel calcio è molto di moda l'espressione "non ci sono giovani talenti italiani", eccetera eccetera, settori giovanili da ristrutturare, da riformare, eccetera. Nel rugby la situazione com'è? Ma la situazione è un po' luce ed ombre. Diciamo che in alcuni ruoli ci sono molti giovani di buone speranze, ovviamente hanno ancora un cammino da fare. In altri siamo un po' più scoperti, soprattutto negli avanti, dove la mia generazione, la generazione di Parisi e Castro Giovanni, insomma, ha giocato ad altissimi livelli per parecchi anni. Sai, dopo di noi manca così una profondità di scelte che ci dovrebbe essere, per quando noi, insomma, non saremo più in grado di giocare a un certo livello. Detto questo, è sempre un problema così di tutti gli sport, ma soprattutto lo sport italiano. Il darsi così delle opportunità nel futuro significa darsi adesso o ieri. È chiaro che noi dal punto di vista di programmazione magari abbiamo delle lacune, e anche dal punto di vista così dello sviluppo dei giocatori. Io credo che il salto più difficile per ogni giocatore in ogni disciplina sia quello dall'epoca giovanile a quella seniores, per cui attorno ai 20 anni. Se in quei 2-3 anni lì che hai a disposizione non fai veramente un salto di qualità, dopo diventa difficile essere spendibile ad alto livello. Grazie Marco. Grazie Marco. Grazie a voi. Buona serata. Grazie Marco Bortolami. Abbiamo finito. Io ringrazio Giorgio De Luca, autore di questa puntata, Fabio Cantadori e Pietro Lacorte in regia. Carlo, domani dopo il GR delle 14 siamo presenti tutti convocati. Vado a San Siro, ciao. Arrivederci e grazie, baci e pace bene a tutti. Tutti convocati.